in primo piano. Come detto, lunedì 5 luglio. Sono due le notizie che maggiormente occupano le prime pagine dei giornali, vale a dire la situazione della manovra con le proteste da parte delle imprese soprattutto, e poi la situazione politica. Davvero si apre una settimana, cari ascoltatori, decisiva, questa, a leggere tutti i giornali anche per la tenuta del governo. Intanto il Sole 24 Ore del lunedì: la service tax premia i comuni del nord, questa è un'interessante inchiesta che vedremo. Gettito record a Mantova, Bologna e Firenze, vale a dire il Sole è andato a calcolare quello che è il nuovo tributo che cumulerà tutti i tributi che subentrerà tra qualche anno, porterà ai vari comuni, vedremo la classifica. Come detto, c'è chi sceglie la manovra e l'appello delle imprese come apertura. Il Corriere della Sera: imprese, appello al Premier. E poi Berlusconi incontra Brancher verso le dimissioni da ministro. Manovra, appello delle imprese anche per il Messaggero. Mentre la scelta della situazione politica è per Repubblica. Fini si mette fuori dal partito. E la Stampa: Brancher verso l'addio. Mentre il Giornale, guardate un po' cosa titola, Fini, leader della congiura, rischio ribaltone, ma soprattutto campeggia a mezza pagina una foto di Gianfranco Fini che fa il saluto romano. L'altra vita, il saluto romano di Gianfranco Fini. Insomma, l'attacco frontale del Giornale non è il primo. Questa testimonianza che si apre una settimana davvero delicata per gli equilibri politici. Come detto, però, iniziamo dalla manovra. La protesta che è esplosa ieri, molto concreta, è quella oltre a quella delle regioni, anche delle imprese. Ieri in un comunicato, leggo a pagina 2 del Corriere della Sera, un comunicato di Confindustria e Rete Imprese, vale a dire il network che rappresenta Confcommercio, Confartigianato, Confesercenti, Casa Artigiani e CNA, ha fatto un attacco molto duro a due articoli in pratica, in particolare della manovra, vale a dire gli articoli 38 e l'articolo 31. Un comunicato tecnico molto molto complicato, ma in realtà che cosa prevedono questi due articoli che sono contestati dalle imprese? L'articolo 38 prevede l'abolizione della possibilità per i contribuenti che hanno un contenzioso col fisco di pagare solo alla fine dell'iter giudiziario, che mediamente supera i 700 giorni. Ora invece, con la novità della manovra, anche se il contribuente fa ricorso perché ritiene di essere nel giusto, dovrà pagare la cifra indicata nella cartella esattoriale entro 150 giorni, cioè prima paga. Se poi alla fine avrà ragione, il fisco restituirà il malloppo. L'articolo 31 invece prevede per la manovra un incasso di 700 milioni di euro nel 2011 e ben 2 miliardi nel 2012. In questo caso, che cosa si prevede? Cessa la possibilità per le imprese di utilizzare la compensazione automatica tra crediti e debiti nei confronti del fisco qualora il contribuente sia iscritto a ruolo, cioè abbia ricevuto una cartella esattoriale con tanto di sanzione richiesta. Anche qui poco importa se magari la ragione farà ricorso, intanto paga e poi si vedrà. Allora, di fronte a queste novità, le imprese alzano la voce e protestano. Lo fa, per esempio, con un'intervista alla Stampa, pagina 3, Giampaolo Galli, il direttore generale di Confindustria, un'intervista concessa a Luigi Grassia, che inizia così: non è che vorrete anche voi imprese mettervi contro i provvedimenti anti evasione fiscale? Ma risponde Galli: guardi che le norme che ci preoccupano non hanno niente a che fare con il contrasto all'evasione. Se vengo obbligato ad anticipare al fisco delle somme che poi nella maggioranza dei casi risulteranno non essere dovute, questa non è lotta all'evasione. Però, chiede Luigi Grassia, pagare quanto chiesto dalle pubbliche amministrazioni e solo in un secondo tempo contestare il pagamento non è un principio generale che ci hanno insegnato a seguire? Le statistiche ufficiali, risponde Galli, che vengono dal governo, dicono che quando il magistrato concede la sospensione del pagamento in attesa della sentenza, nel 75% dei casi segue la vittoria del ricorrente. Far pagare dunque alla gente somme che non sono dovute mi sembra che vada un po' oltre il principio che ha enunciato lei. Questo risponde dunque il direttore generale di Confindustria, Giampaolo Galli. Questo è il motivo della protesta da parte delle, delle imprese. Riguardo alla manovra, però, c'è un'interessante intervista al ministro Renato Brunetta sul Corriere della Sera. L'intervista è di Roberto Bagnoli. Il Sud stavolta sto con Tremonti. Brunetta ha detto che dice il motto nostro deve essere calma e gesso, perché quando la situazione si fa calda bisogna tenere la testa fredda, specialmente in un momento dell'economia internazionale in cui nulla sembra certo. Riguardo al Sud cialtrone, questa è stata l'accusa nel weekend di Tremonti, molto forte. Non mi si può accusare certo di essere un tremontiano, ma questa volta Giulio ha ragione, dice Brunetta. A causa della modifica del titolo quinto della Costituzione, oggi le regioni e gli enti locali sono fuori controllo. Morale, il convento è povero e i frati sono ricchi. Come dargli torto? E quindi Berlusconi faccia qualcosa. Ha annunciato il Gepensimi, dice Brunetta. Ebbene, da oggi riunisca i ministri competenti e faccia un piano di rilancio per il Sud. Poi però, ministro, c'è lo stillicidio sulla manovra, il refuso di Sacconi sulle pensioni, la tagliola sulle tredicesime, i sacrifici alla scuola. Dove mettiamo tutte queste cose? E sentite che risponde Brunetta. Ho simpatia per quel refuso. Avrebbe significato l'abolizione delle pensioni di anzianità in modo graduale e indolore, ma non lo si poteva fare per decreto e quindi che refuso sia. Per il blocco dei contratti del pubblico impiego mi sembra che sia stato accettato dalle parti sociali, hanno incassato più degli anni scorsi, ora possono stare fermi un giro. La CGIL ha portato in piazza ben poca gente. Poi Brunetta parla anche della situazione politica, che come detto è una situazione molto molto tesa. Il caso Brancher sono tutte esagerazioni e forzature, anche le intercettazioni. Per capire che era necessario un intervento sulle intercettazioni basterebbe andare a vedere il progetto Mastella del governo Prodi e analizzare le analogie. La verità è che la politica si sta dilaniando su sovrastrutture. Anche Fini è una sovrastruttura? Io spero sempre che con il presidente della Camera una soluzione si possa trovare. L'importante è che finisca al più presto questo logoramento che fa male al PDL, al governo, al paese. Calma e gesso. Per l'appunto questo è il messaggio che vuole lanciare Renato Brunetta. C'è da dire che sarà calma e gesso, ma in realtà che la situazione sia molto, ma molto, ma molto tesa a livello politico, questo lo si può evincere leggendo qualsiasi giornale. Come detto, la sfida del premier a Gianfranco, ormai non escludo neanche la crisi. Questo è Repubblica, il retroscena politico di Claudio Tito. C'è un Berlusconi che viene virgolettato così, ma come sempre quando sono in retroscena io ve lo dico sempre, sono virgolette un po' ipotizzate, no? Di retroscena, di qualcuno che cerca di sondare l'umore. In realtà non sono dichiarazioni vere e proprie ufficiali. Cercherò di evitare una crisi fino alla fine, ma un chiarimento a questo punto è indispensabile. Per ottenerlo sono pronto a correre anche questo rischio. È Fini, non io, che sceglie questa strada. È lui che sta scegliendo di mettersi fuori dal partito. Questo è il virgolettato attribuito a Berlusconi. Cioè, la sfida che si profila questa settimana sono essenzialmente due. La prima è quella del caso Brancher, e il ministro Brancher è vicino alle dimissioni, pare addirittura che le dimissioni possano arrivare oggi. La seconda è quella delle intercettazioni, e ce n'è in tutto questo anche una terza questione, che è quella che in realtà sui giornali di oggi è più sviluppata, è proprio quella del rapporto tra Berlusconi e Fini. Ormai non escludo neanche la crisi, situazione difficilmente rimediabile. Queste sono i rumors sul rapporto Berlusconi-Fini, e come detto bisogna prendere in mano il giornale che io ho citato in apertura solo così come titolo principale. Fini, leader della congiura, ma ripeto, fa molta impressione questa foto rispolverata da qualche anno fa di un Gianfranco Fini che fa il saluto romano, e la didascalia dice l'altra vita, il saluto romano di Gianfranco Fini. E c'è un Vittorio Feltri durissimo nel suo editoriale, non è la prima volta nei confronti di Fini, ma Questo fa capire che siamo alla resa dei conti. È dallo scorso settembre, scrive Feltri, che andiamo ripetendo le stesse cose su Fini. Inutilmente il PDL ha sempre cercato di farci passare per matti, dicendo che col presidente della Camera si poteva e doveva stringere un accordo. Sbagliato. Puntare alla pacificazione è stata una perdita di tempo. In pratica Fini è sul punto di ottenere ciò che voleva, far fuori il Premier e distruggere la maggioranza. Infatti, se cadesse l'esecutivo, scrive Feltri, la decisione sul da farsi toccherebbe al Presidente della Repubblica. E se questi, anziché sciogliere le Camere, incaricasse una qualunque personalità di formare un nuovo governo sostenuto da larghe intese, cioè da una grande ammucchiata, ecco che Fini canterebbe vittoria. Perché avrebbe ottenuto l'unico obiettivo, spedire in pensione Berlusconi. Poi succeda quel che succeda. L'importante è che crepi Sansone con tutti i filistei. E allora dice Fini, è il momento, pare di capire, e si legge anche l'articolo a pagina 2, con Gianfranco è finita. Berlusconi in settimana vuol dare scacco matto. Questa è la settimana veramente, si pensa, decisiva per la fine del rapporto. In qualche modo si vedrà se separazione consensuale o separazione invece in maniera forte tra Berlusconi e Fini. Ma certo, la politica poi è strana, quando si leggono sui giornali alcune cose poi va a sapere se va veramente così. Come detto, il caso Brancher è analizzato coi giornali, dai giornali tutti a dire probabilmente oggi ci sarà le dimissioni, ci saranno le dimissioni di Brancher. A pagina 5 del Corriere, addirittura il Corriere si spinge oltre e dice: Brancher non solo si dimetterà da ministro, dovrebbe anche lasciare da sottosegretario. Per gli amici si spoglierà di tutto in modo da essere processato con rito abbreviato nel caso Antonveneta. Anche qui staremo a vedere. Intanto parla, per quel che riguarda il Partito Democratico, Enrico Letta, lo fa all'Unità, a pagina 10, un'intervista concessa ad Andrea Carugati. La linea del Partito Democratico è che si sia vicini alla fine, alla crisi politica, alla crisi della maggioranza, tanto che Enrico Letta dice: giovedì è la giornata decisiva in cui si voterà la mozione di sfiducia a Brancher. Non sono più in grado di governare, dice Letta. Toccherà a Napolitano decidere. Adesso l'Italia deve liberarsi di Berlusconi. Vede una crisi alle porte, chiede Andrea Carugati. Sono crepe non più suturabili. Siamo in una situazione di pre-crisi. Il primo passaggio decisivo giovedì, il voto della Camera sulla nostra mozione di sfiducia a Brancher. Ci saranno sorprese tra assenze e casi di coscienza. Su quel che riguarda Berlusconi, la maggioranza è vicina al capolinea, dice Letta. Per noi il punto di partenza è che Berlusconi si faccia da parte. Ripeto, staremo a vedere, ma certo lo scenario della politica del lunedì è questo, settimana decisiva. A Mantova la service tax più ricca. Prendo in mano il Sole 24 Ore. Come detto in apertura, c'è questa interessante inchiesta sul federalismo e sulla service tax, vale a dire la tassa al tributo che dovrà che sarà affidata ai comuni e che è la nuova imposta immobiliare che sarà affidata ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale, che raggrupperà tutte le altre tasse che per il momento ci sono. E che cosa ha fatto il Sole 24 Ore? Un'interessante proiezione a capire quanto, mettendo insieme tutte queste tasse, sarà il gettito totale, che sarà 25 miliardi di euro, il gettito totale della nuova imposta, dove confluiranno che cosa? L'ICI, l'imposta ipotecaria catastale, l'imposta di registro e l'IRPEF riconducibile agli immobili. Ed è andata a fare questa classifica, come spesso accade solo le 24 ore del lunedì, di quali sono i comuni che avranno da questo gettito un maggiore contributo, il maggiore gettito di tributi. Al primo posto c'è Mantova, 529 euro, poi Bologna 495 euro, Firenze 487, Milano 476. A Mantova la service tax più ricca, questo è il titolo, e a pagina 3 Cristiano Dell'Oste e Gianni Trovati ne scrivono. Mantova, Bologna, Firenze si candidano appunto a città regine della service tax, l'imposta immobiliare unica che sarà il pilastro delle entrate dei sindaci dell'Italia federale. un'imposta, tra l'altro, e questo è il senso della classifica, che si annuncia particolarmente ricca nel centro-nord e che non sembra invece destinata a dare troppe soddisfazioni a chi amministra un comune del mezzogiorno e più in generale un centro medio-piccolo o lontano dalle aree più spumeggianti del mercato immobiliare. Ecco, questo è un aspetto importante, perché il mercato immobiliare spinge in alto la classifica soprattutto dei comuni grandi e quelli settentrionali. Oltre al livello degli affitti, è il dinamismo del mercato a contribuire a spingere in alto le imposte laddove ci sono, laddove sono alte, invece a frenare un po' le imposte in comuni come Vibo Valentia, Catanzaro, Crotone, che costituiscono gli ultimi tre posti, il 96esimo, 97 e 98esimo della classifica. Vibo Valentia, per esempio, sono 129 euro l'importo, il gettito dei tributi che confluirà in questa service tax. Catanzaro 122 euro, Crotone 113 euro, questi gli ultimi tre posti della classifica. Ricordiamo invece Mantova viaggia sui 529 euro pro capite, questa service tax futura. Un'altra interessante inchiesta che trovate sul Sole 24 Ore con annessa classifica. Che cos'è? È quello che abbiamo già sentito in parte in un servizio nel GR, vale a dire il fatto che siano in Italia fuori legge 4 condomini su 10. Beh, incredibile, i condomini che devono presentare il modello 770, obbligatorio da anni, ma 4 volte su 10 non viene presentato. Cioè, secondo i dati degli amministratori ANACI, l'associazione dei condomini appunto, su circa... 1 milione di edifici condominiali contraddistinti da un codice fiscale che dunque devono presentare i modelli 770, 600.000 li presentano e 400.000, dunque il 40%, no. Ora, che cosa c'è dietro? Beh, in alcuni casi, scrivono tra l'altro sempre Cristiano Dell'Oste e Saverio Fossati, sicuramente c'è un amministratore che mi ha fatto magari eseguire dei lavori per conto del condominio, non ha chiesto la fattura. Insomma, un'evasione fiscale c'è dietro. In altri casi però potrebbero esserci lavori regolarmente fatturati per i quali ci si è dimenticati di effettuare la ritenuta o presentare modulistica fiscale. Quindi non è detto che nel 40% dei condomini si evada il fisco. Però certamente il dato di fatto è questo, che il 40% dei condomini italiani non presentano il modello 770 e quindi sono fuori legge da questo punto di vista. Oh, io voglio andare ad alcune segnalazioni interessanti. La prima la troviamo in prima pagina, per la verità non è il primo giorno, dell'Unità. L'Unità da alcuni giorni sta raccontando la storia davvero tormentata e incredibile di un gruppo di eritrei che sono stati respinti, stavano cercando di arrivare in Italia, sono stati respinti e si troverebbero ora in un carcere lager a Brac, nel sud della Libia, da dove Umberto e Giovannangeli, da un paio di giorni tra l'altro stanno raccontando l'Unità questa storia, da dove addirittura ci sarebbero arrivati dei messaggi SMS di questi eritrei: siamo rinchiusi in celle sotterranee, colpiti da malattie, torturati, vi chiediamo accoglienza in Italia, abbiamo diritto per le norme sui profughi, ma siamo stati respinti. L'Unità oggi vi dedica almeno 6 o 7 pagine, perché è una storia che hanno cavalcato loro. Noi, scrive Umberto e Giovannangeli, abbiamo raccolto questo appello, l'abbiamo girato alla Presidenza del Consiglio, a Roberto Maroni, al Ministro degli Esteri Frattini. C'è anche un'intervista al Presidente del Sindacato dei Giornalisti che dice: tutti i giornali diano spazio a questo caso, perché è un caso sconvolgente di respingimento di persone che avevano diritto ad avere la cittadinanza perché fuggivano da teatri di guerra, erano profughi e invece sono stati respinti. E questa è la, diciamo, anche la conseguenza dei famosi respingimenti, che certo non hanno portato più persone a sbarcare a Lampedusa, ma che in questo caso, secondo l'Unità, racchiudono anche dei drammi umani che vengono censurati e di cui non si sa nulla, di persone che avrebbero diritto ad essere accolte in Italia e che invece ora rischiano di morire. Le segnalazioni conclusive, beh, le voglio citare su Facebook, che è stato teatro del dramma, il dramma raccontato dal dal cantautore Nicolò Fabi, che ha deciso di scegliere di raccontare a Facebook il dramma della morte della figlia di 2 anni. Invece di, insomma, o annunciarlo, comunque farlo annunciare a qualcuno, ha deciso di scrivere su Facebook: vi sto per scrivere, cari amici, quello che non avrei mai voluto scrivere. Questa notte una sepsi meningococca fulminante ha portato via nostra figlia Olivia, Lulubella per chi l'ha conosciuta e amata. Il dolore devastante che mi attanaglia la gola è la conseguenza dell'esperienza più inaccettabile, orrida e ingiusta che un essere umano possa vivere. Muore la figlia, lo shock di Fabi sul web. Beh, questo è certo una scelta che fa molto discutere, perché la scelta di annunciare su Facebook la scomparsa della figlia, questo lo trovate oggi su tutti i giornali. Come invece un'altra notizia, questa volta una lieta notizia, ma certo che porta a polemiche anche in questo caso, l'ha annunciata su web anche Cristiano Ronaldo, deluso dai mondiali, una delle star che è uscito anche con quello sputo nei confronti della telecamera in maniera indecorosa dai mondiali. Che cosa ha annunciato via Twitter, in questo caso Cristiano Ronaldo? È diventato papà. Vabbè, una cosa abbastanza normale, solo che c'è un piccolo particolare: la mamma verrà mantenuta segreta, come si dice mater semper certa, e invece no, verrà mantenuta segreta, come d'accordo con la mamma del bambino che preferisce mantenere segreta la sua identità, mio figlio sarà sotto la mia custodia esclusiva. Cioè, ha fatto fare un figlio a una donna, pare negli Stati Uniti, si sono sguinzagliati tutti a capire ora chi è questa benedetta mamma, e pare che adesso la figlia verrà presa dalla nonna, o meglio dalla mamma di Cristiano Ronaldo, e dalle sorelle, per essere allevata da lui da solo. Ronaldo fa il ragazzo padre, ma è un autogol, così a pagina 13 del giornale, ma anche il Corriere della Sera nelle pagine dello sport: sono papà, ma la mamma è segreta. Chissà quanto rimarrà segreta, già i giornalisti si stanno sguinzagliando alla ricerca di questa mamma, pare abbia partorito negli Stati Uniti. Ci fermiamo qui.